Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. I giapponesi dedicano persino canzoni all'alga palla, da loro chiamata Marimo. Amatissima nel paese del Sollevante, quest'alga da lago a forma di pallina, facilissima da tenere, ormai sta conquistando anche l'Occidente e l'Italia. Ne parleremo nel corso di questa puntata del Giardino Segreto, bentrovati, in cui cercheremo di rilassarci, di mettere da parte ansie e paure, parlando e poi adottando piante inusuali, sorprendenti e piene di virtù. Per partire, voglio sorprendervi con un giardino commestibile che possiamo allestire anche in città e addirittura in vaso, con piante, anche qui, insolite, antiche, ma non dimenticate. Tra coloro che le preservano, le coltivano e, cose importanti, le divulgano, c'è Paolo Gullino, dell'azienda toscana Piante Innovative. Ben trovato al Giardino Segreto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Piante Innovative, già il nome ci incuriosisce. È un cortocircuito tra le piante del passato, le piante antiche, quelle che 60 anni fa caratterizzavano l'orticoltura di qualità dei contadini, è uno sguardo al futuro, quindi verso quello che queste piante possono dare nell'impresa del cambio del clima, dell'agricoltura sostenibile. È un ritorno di queste piante antiche in una forma attuale, quindi la rilettura di queste piante, quindi innovativo e siamo noi, diciamo, che ritorniamo a queste radici, con tutto quello che è annesso e connesso, dalle autoproduzioni a usare sistemi naturali, ma allearsi con gli insetti, con i microrganismi, con i piccoli fondamentali elementi che la natura sapientemente sa collegare. Ma è così bravo da riuscirci a spiegare in non molto tempo perché queste piante sono state abbandonate e in che modo adesso possono aiutarci nella nostra epoca pazza di clima cambiato? Certo, sicuramente sono state abbandonate per andare dietro a un modello che puntava di più sull'uniformità, sui mercati all'ingrosso, sulla durabilità, sulla standardizzazione. Queste piante circa 60 anni fa erano di dominio dei contadini, delle persone che curavano giardini, orti, terre. E c'è stato lo spostamento dalle campagne alla città, quindi tante di queste cose si sono veramente perse. Diciamo che poi hanno dalla loro questa vicinanza verso le loro parenti più selvatiche. Come sa, tutte le piante che sono più prossime all'ambito selvatico, al mondo selvatico, sono più robuste, sono più resilienti, sono più capaci di rispondere e comunque di completare il ciclo. Vero. Tornano in questo senso, assolutamente. Possiamo allora fare qualche esempio di queste piante che non soltanto sono utili, non soltanto arrivano dalla nostra tradizione, dal nostro passato, quando insomma se ne sapeva, ecco, ma sono anche sorprendenti. Certo, lì diventa poi anche un riscoprirsi partecipi di questa ricerca. Una fra tutte è il pomodoro tomatillo, lo chiamo pomodoro propriamente perché il tomatillo sarebbe il primo tipo di pomodoro che dal Sud America è approdato in Europa nel 600, quindi noi lo conosciamo come un frutto rosso da tavola, ma in realtà il tomatillo è verde, giallo-verde, da cui si deduce anche il termine pomodoro, cioè frutto d'oro. È avvolto in questa capsula, quindi è un pisalis, è una pianta che ha un involucro che protegge i frutti che poi andiamo a utilizzare. È molto facile da coltivare, è assolutamente impiegabile in decine di ricette, da crudo a cotto, fatta la salsa. Una pianta molto rustica, quindi la consiglio a chi ha anche poco spazio e occupa meno spazio dei pomodori, quindi si può coltivare con molta facilità. Il tomatillo che è messicano? Il tomatillo che è messicano, se uno va in Messico e chiede il pomodoro, cioè il tomate, gli danno questo frutto qua, che per loro è il vero pomodoro. Cosa si differenzia, mi riferisco al sapore o alla forma, dai nostri pomodori? Sicuramente ha più variabilità, cioè seconda di come lo cuciniamo, se lo utilizziamo crudo o stufato piuttosto che saltato in padella, cambia di gusto proprio, ti passa da un sapore simile al formaggio da crudo a un acidulo stufato a un dolce se si passa in padella. E questo è un altro aspetto importante, che queste piante, chiudendo il cerchio, portandocele a tavola dal nostro giardino commestibile, diciamo, alla cucina, ci sorprendono nei sapori, perché non siamo più tanto abituati a queste virgole, a queste sfumature così uniche. E quindi è anche uno stimolo per il gusto, per il cervello, per tutte le connessioni che questo senso così importante, almeno per noi italiani, diciamo, ha, e integrarlo con queste varietà di piante che hanno dei sapori, oltre che delle storie poco noti oggi, è un modo anche di ritrovare quanto possiamo scoprire da questo mondo di piante antiche, dimenticate. Il tomatillo ce lo possiamo portare in città se abbiamo un giardino, se abbiamo un orto, ma anche se abbiamo un vaso sul terrazzo? Certo, anche perché, come dicevo, è un frutto che si presenta protetto da un involucro, diciamo, di carta, non è di carta ma è un pisalis, quindi una sorta di vescica, no? Che ha presente l'alchichengi, è simile all'alchichengi. Certo, chiarissimo. Il frutto viene protetto da polveri sottili piuttosto che attacco di cimici, basta poi scartarlo e rimarrà perfettamente pulito, ecco. Perfetto, e quindi ce la facciamo, se mi dice che è molto facile, un bel vaso grande, lo lasciamo al sole. Chi coltiva nel vaso, è sempre importante guardare bene i drenaggi, cioè che la terra non soffra mai di ristagno più che tanto, basta metterci un fondo di sassolini, ma anche nella miscela del terriccio andare a aggiungere perlite, un po' omice piuttosto che zeoliti, per alleggerire il terriccio stesso e far respirare le radici. Il trucco è un po' tutto lì per chi coltiva in vaso, fossero anche solo i basilici, ma io poi possiamo parlare di piante per ore, ma il tempo, come giustamente, è poco. È poco, ma io voglio altri esempi oltre il tomatillo, non mi fermo certo. Qui. Possiamo accompagnare il nostro tomatillo con appunto dei basilici particolari, ci sono più di 90 tipi diversi di basilici che nulla tolgono al nostro genovese, ma anzi hanno delle note di profumi incredibili. Uno fra tutti è il basilico definito santo, Ocinum tenuiflorum, che è un basilico orientale, indiano precisamente. Ed è un basilico che ha un profumo di menta, è buonissimo da usare nelle tisane, un rimedio ayurvedico contro il mal di testa, mal di pancia, ha tutte le sue proprietà, i suoi aromi che lo accomunano al basilico, ma anche qui è un po' più selvatico, quindi avremo una pianta molto robusta, graditissima alle api. Il tema delle api in città è un altro mondo che non stiamo ad aprire, ma bisogna citare. Lo abbiamo già fatto, infatti ci interessa sempre molto avere piante che attirino le api. Certo, è una festa. Infatti, quindi il profumo di questo basilico santo, oltre che a noi, piace alle api. Sì, piace molto alle api, è una fioritura durevole, molto facile perché, come dicevo, è una pianta abbastanza selvatica nel suo portamento, quindi si può curare benissimo come un'aromatica in vaso, spizzicarne le foglie, non solo per le tisane. Poi io mi dico sempre che c'è molto da sperimentare. Tornando alle api, perché io la seguo, l'ho seguita nella sua presentazione durante le giornate di orticola a Milano, e un'altra fioritura che è amata dalle api è quella del daikon. Assolutamente sì. Una sorta di rapanello? Ha in sé il record Guinness dei primati come tubero. È il ravanello più grande del mondo. Ora, i daikon ci sono normalmente quelli lunghi, bianchi, sono sempre originari del Giappone, molto amati perché si usano crudi, si possono fare un sacco di ricette. Noi abbiamo trovato un po' di anni fa questa varietà rara, quasi in estinzione, ed è un ravanellone rotondo, un daikon rotondo, che è veramente incredibile. È una pianta che da fine febbraio produce questi fiori azzurri che veramente sono molto graditi alle api, bellissima anche come fioritura, queste foglie ricordano un po' l'acanto. Molto rustica. Molto rustica, molto facile, al tubero più grande del mondo, però il daikon sul balcone no. Andiamo sul rotondo, quindi non c'è bisogno di un vaso altissimo. Andando sul rotondo viene bene anche in vaso, io l'ho provato. Davvero? Un 30, sì. E poi non andiamo a mangiare magari il tubero, che è significativo, però sarebbe un caso isolato. Ma aspettiamo le filique, dopo la fioritura compaiono questi involucri che conterranno poi i semi, prima che maturino del tutto. Se ne andiamo a spizzicare qualcuno, avremo un sapore di daikon molto buono, frizzante, quasi piccante, che riassume in sé tutte le caratteristiche del tubero, quindi si può raccogliere e procedere anche per via aerea, diciamo. Un'altra pianta che mi aveva affascinato dal suo racconto era il cetriolo serpente. Certo. Certo. Io penso di averli assaggiati, non so se è quello a cui si riferisce lei, ma di sicuro ho mangiato cetrioli lunghissimi, crudi, in spiaggia Carloforte in Sardegna. Sì, è probabile, perché poi queste varietà, queste specie di piante si sono diffuse un po' a macchia di leopardo, quindi nelle zone magari del sud Italia, le isole, anche se hanno un'origine lontana, si sono diffuse, sono diventate anche tradizione a volte. Piante dell'altra parte del mondo diventano una tradizione in luoghi molto distanti tra di loro. È il caso di questo cetriolo, che è assolutamente digeribile, si usa anche la buccia, si può mangiare crudo, tagliato a rondelle piuttosto che saltato in padella, ci si fa una spaghettata con questo cetriolo incredibile, che è molto particolare perché sembra proprio un serpente tutto attorcigliato, come se il frutto volesse un po' mimetizzarsi con questo temibile animale, no? E in effetti forse è una difesa che tutto stesso, o meglio che la pianta intelligentemente adotta per evitare che in anticipo gli animali vadano a mangiarne i frutti. Quindi senta, qual è il nome ufficiale del cetriolo serpente? Lo dica piano. È Trichosanthes anguina. Già anguina fa capire, insomma, tante cose. Trichosanthes anguina. Sì, si distingue per il fiore bianco che ha, che sembra un centrotavola, molto profumato. Potete sperimentarlo in un vaso, lì si va su un 30, anche lì, dandogli da arrampicare. Vedrete una pianta incredibile, con una forza della natura anche questa. Quindi anche il cetriolo serpente in vaso? Sì, su un 30 ci sta bene anche, produce parecchio, quindi dandogli un po' un punto un po' esposto al sole o comunque abbastanza protetto dai venti, avrete una produzione di questi frutti incredibile. Bisogna andare su un vaso di un 30 in su, quindi per chi ha un micro balcone non lo consiglio, ma per chi ha un bel terrazzo o un giardino medio esposto è un'ottima varietà, veramente, un'ottima specie di pianta. Noi potremmo continuare a lungo, perché Paolo Gullino di Piante Innovative propone tra l'altro anche l'aglione, lo spinacio rampicante, la mandorla di terra, anche lei va benissimo in vaso, lo yam, i capelli d'angelo, l'ocra, lo yacon, solo per citare qualcuna di queste piante commestibili sorprendenti. Ma quali scegliere e come procurarcele? Ne parliamo tra poco. Il giardino segreto. Bentornati, oggi ci sorprendiamo con piante inusuali a cui non siamo abituati, ma piene di virtù e facili da coltivare anche in vaso. Stiamo parlando di piante antiche, commestibili, ma noi le coltiviamo non soltanto poi per assaggiarne il frutto, ma anche per il piacere di mettere le mani nella terra. È così, Paolo Gullino? Assolutamente, non è solo un fatto di cucina che portiamo a tavola, ma è anche un fatto di giardinaggio. C'è questa voglia di scoprire, di ritrovare le radici anche in se stesso, quindi possiamo farlo diventare. È quello. Sono un po' come gli appassionati, quelli che vanno a funghi. Poi alla fine il fungo è una scusa per stare in natura. E quindi esatto. Anche coltivare da noi le nostre cose, è vero che poi abbiamo un vantaggio dal punto di vista dei nostri sapori, dei nostri prodotti, però insomma è anche una scusa per avvicinarsi alla natura, conoscerla, stargli vicino, e lì poi una trasmissione di benefici, no? Certo, ma ci sono tantissimi esempi. Un ragazzo l'altro giorno mi diceva, è un tempo che ci si ritrova, lui si svegliava alle 6, doveva andare a lavorare alle 7, è un lavoro normale come tutti, ma alle 6 si dedicava un'ora al suo piccolo giardino, e quest'ora che lui dava nell'innaffiare, nel piantare, nel aggiustare questo giardino, gli dava come una bolla, che anche quando andava a lavoro le persone dicevano: ma che cos'è che hai fatto, sei così tranquillo, sereno, vedo che stai proprio bene. Cioè, ho curato il mio orto, il mio giardino. Quindi è un modo anche di iniziare bene la giornata, di caricarsi o di ricaricarsi. Sì, esatto. Abbiamo fatto una conversazione veloce, però tutto quello che abbiamo detto è raccolto in un sito che è www.pianteinnovative.it, perché ci sono i semi. Certo, ed è il seme la cosa più preziosa forse che abbiamo, è un tesoro, quindi assolutamente partire da semi, che uno anche con queste varietà antiche ha possibilità di rifarsi, cioè di acclimatare, di raccogliere, di salvare. Tanti pensano alle banche dei semi, io considero più i semi come una libreria, no? Mettere, ecco, queste librerie consultabili di semi, di scambio dei semi, assolutamente fondamentale. Non tanto chiusi nelle banche, ma coltivati all'aria aperta, anche perché loro si adattano e queste piante sono capaci di adattamento. Quindi se vi servono un semi, semi, assolutamente dal sito trovate, vi dico sempre è una goccia nell'oceano perché le varietà sono tantissime, però abbiamo fatto una selezione accurata dando questo criterio di ricerca che aiuta molto anche a creare questi giardini commestibili. È assolutamente un fatto da provare, da riscoprire, ecco. Diamo un duplice obiettivo: comprare i semi una volta sola e poi produrli da noi. Si può fare. Ed è anche una cosa molto bella, divertente, didattica, se avete anche dei ragazzi, giovani, anziani, unisce le generazioni. I semi, io ho avuto in consegna dei semi rarissimi da persone che l'avevano ricevuti a loro volta dai loro nonni, quindi è anche una responsabilità, diciamo, però ha in sé questo sapore di libertà che ti passa nelle mani, che tu semini, che tu non c'è bisogno nemmeno di accanirsi, perché poi tante piante sanno fare il fatto loro, basta dare i punti giusti, le innaffiature regolari, un buon terriccio naturale e vedrete la magia crescervi sotto il naso. Allora, adottiamo le piante innovative e questo ci regalerà un sapore di libertà. Mi è piaciuto molto quello. Grazie Paolo Gullino. Grazie, grazie a voi. A risentirci, a presto. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is song. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed picture, gardens of hope. Everywhere, just to share, gardens of hope. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope. Wind blows, seed go from hand to hand. Seeds of freedom. Piantinnovative.it per vedere le piante, avere i semi e anche per il ricettario. A proposito di piante inusuali, quella di cui stiamo per parlare adesso non si mangia, ma si limita a farci innamorare, perché l'alga palla giapponese non ha controindicazioni, non vuole cure, non ha bisogno di molta luce, è beneaugurante e in natura vive secoli. La propone tra gli altri a Milano, nel suo negozio di Piola Dot Room, l'agronoma Giulia Tamai. Marimo in giapponese, poi c'è il nome scientifico Egagropila linnei. Te la presento? Sì, prego. È un'alga di acqua dolce che sembra quasi una palletta di ciniglia. La tocco. Che meravigliosa consistenza. È una spugnettina, in realtà no, è un essere vivente, un'alga. Essere vivente, è un'alga che in natura vive nei laghi freddi dell'Europa nord-orientale e dell'Asia orientale. In Giappone vive in un unico lago, il lago di Akan, che è a nord, ed è protetta perché ha rischiato l'estinzione e quindi adesso è patrimonio naturale. C'è un parco proprio nazionale in Giappone su questo lago di Akan e tutti gli anni viene fatta una festa in loro onore sulle sponde di questo lago. Sono delle piccole alghe che in natura vivono fino anche a 300 anni. Quale vedi piccole? Sfere quasi perfette, direi, di pochi centimetri di diametro queste. In natura sono più grandi. Queste hanno intorno agli 8-9 anni. In natura tieni conto che vivono anche fino a 300 anni. Fungono da rifugio per i piccoli gamberetti. Hanno questa forma tonda ovviamente perché le correnti del lago le fanno rotolare in continuazione. Sino a farle diventare delle vere e proprie alghe palle. Esatto, delle pallette verdi. La cosa molto bella è che in Giappone, nella cultura orientale, siccome hanno questa vita molto lunga, queste alghe, regalare un marimo ha un valore simbolico molto forte ed è un bellissimo regalo, proprio un regalo di buona vita in generale. Benaugurante. E poi c'è un'antica leggenda che narra la storia di due fidanzati le cui famiglie erano contrarie alla loro unione, per cui loro, per giurarsi amore eterno, sono andati sulle sponde del lago di Akan e hanno trasformato il loro cuore in marimo. Quindi queste cose è molto romantica, molto bella. Ma in realtà la cosa bella è che, oltre ad essere molto belli loro, sono a prova di killer, io dico sempre, nel senso che è difficile ammazzarli. Quindi laddove un kokedama ha bisogno di cure particolari, acquari e in fondo anche un terrarium, l'alga palla va bene per tutti i famosi pollici neri. Assolutamente sì, dove no, non esiste il pollice nero, dove la metti sta, nel senso che dunque il fattore limitante non è tanto la luce, in quanto in natura vivono sui fondali dei laghi dove filtra pochissima luce, quindi loro vivono bene anche in penombra. Quindi una delle poche piante che non vogliono molta luce. E dicevo che appunto il fattore limitante non è tanto la luce quanto la temperatura. Loro amano l'acqua fresca. Io consiglio sempre di cambiare l'acqua ogni 5-6 giorni circa. Va benissimo utilizzare l'acqua di rubinetto perché deve essere un po' calcarea. Pure, vedi? Anche quella comodità. Esatto. Quindi abbiamo un vaso di vetro o di cristallo con un coperchio, sì, qualche sassolino sulla base, acqua, le alga palla. C'è chi le ama senza nulla, c'è chi le ama con i sassolini. Io di solito faccio scegliere alle persone, dico va bene, scegli il tuo vaso, adesso tu mi dici se vuoi i sassolini bianchi, non vuoi i sassi, vuoi le conchiglie, io metto quello che desiderano. Dopodiché nell'acqua si mettono queste alga palla e loro fotosintetizzano. Esatto, loro fanno la fotosintesi come qualunque altra pianta, crescono molto molto lentamente perché crescono intorno ai 3-4 mm all'anno. A volte si riproducono, loro si riproducono per gemmazione. Se l'ambiente è particolarmente favorevole, a volte si riescono anche a riprodurre, ovvero si stacca un piccolo pezzettino dall'alga, dalla mamma. Possiamo anche riuscirci, quindi. Volendo, chissà, sì, io non metto limiti, non metto limiti. E dicevi, cambiamo l'acqua del rubinetto, gran comodità. Ogni 5-6 giorni, ogni 5-6 giorni, e volendo poi uno, se ha un contenitore abbastanza grande, può anche fare la prova e aggiungere un po' di acqua gasata. Aggiungendo l'acqua gasata, che contiene anidride carbonica, loro fanno una fotosintesi un pochino più spinta e quindi spesso emettono numerose bollicine d'ossigeno e quindi stanno a galla. E questa sorta di danza appunto viene chiamata la danza dei marimo, quindi si può anche fare questa prova. Anche loro si muovono. Anche loro si muovono, io li sto osservando, ormai li ho sotto studio da più di un anno e vedo che a volte stanno a galla, a volte stanno sul fondo, non ci sono delle regole fisse, dipende un po' da come stanno loro, dipende ovviamente dalla temperatura dell'acqua, dalla luce, per cui se fanno una fotosintesi più o meno spinta in quel momento, dipende da tante variabili, per cui è vita e si muove. Esatto, esatto. Dicevamo le marimo, mi va bene la penombra, quindi in che posto della casa possiamo metterle? Anche magari in luoghi dove di solito non riusciamo a tenere piante o verde? Assolutamente sì, si possono mettere anche in penombra senza problemi. Ripeto, il fattore limitante è la temperatura, quindi evitare le fonti di calore e cambiare l'acqua più spesso se in caso di casa molto calda. Però tranquillamente si possono tenere anche in penombra, in zone dove non metteresti mai una pianta. Dottorum.it per vedere l'alga palla, ma anche i terrarium e i kokedama di cui già abbiamo parlato al Giardino Segreto. Vi aspetto domenica prossima alle 15.30 per parlare di piante dalle quali vedrete che arriverà la soluzione anche per questo nuovo virus. Grazie a Valeria Bernardi in regia, grazie a voi per avermi seguito. Una buona settimana green da Roberta Pellegatta.